Il semaforo che si aggiorna ogni venerdì vede da ieri in zona rossa la Toscana e la Campania, con relative polemiche di entrambi i presidenti delle regioni. Passano in arancione Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Marche, mentre la Basilicata chiude le scuole. Eccone un'altra. Il tutto mentre si conferma la stabilizzazione dei numeri, che pur in aumento fanno segnare 116 ingressi in terapia intensiva e 660 ricoveri. Si guarda alle misure economiche, alla manovra che oggi in Consiglio dei Ministri dovrebbe essere ripensata, al nuovo deficit per un terzo decreto ristori, a come gestire il Natale, che pare che sia la cosa sulla quale si concentrano tutti. Il tutto mentre una delle due componenti centrali della maggioranza, il Movimento 5 Stelle, alle prese con gli esiti di quello che potremmo definire il loro congresso. Per gli appassionati del genere si va verso un accordo, quantomeno una tregua, tra la cosiddetta ala movimentista e quella governista. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare. Mattino di Simone Spezia. Care ascoltatrici, cari ascoltatori, buongiorno, è lunedì 16 novembre, sono le 6:35 minuti, scrive qualcuno già, Spezia sveglia, perché siamo entrati, oh ragazzi, un minuto e mezzo di ritardo, abbiate pazienza, non è che stessimo dormendo, né io, né Pietro Lacorte che è in regia, né Alessandro Marco Tulli che è in assistenza in redazione, né gli altri colleghi della redazione, oddio, forse qualcuno sì perché ha lavorato fino a ieri sera, ossia Giorgio De Luca, Gloria Guerrera e i nostri autori Margherita Ina e Francesco Ciaraffo. Vi aspetto, 349-238-6666 per i vostri sms, messaggi su WhatsApp, WhatsApp audio, le vostre voci. Chiede un ascoltatore, ma esattamente De Luca cosa voleva? Lo sa che non l'ho capito nemmeno io, ad essere sincero, perché prima voleva la zona rossa e poi gli hanno dato la zona rossa e poi questa zona rossa non andava più bene, poi ieri è andato da Fazio, lo sentiremo con il suo solito atteggiamento caustico, chiamiamolo così. Però vogliamo iniziare il lunedì da questi nuovi mostri. Quali sono i nuovi mostri? Sono quelli, per esempio, che hanno manifestato a Roma, i No Mask che hanno manifestato a Roma, manifestazione dispersa, multe arrivate. Sono persone come il ben noto direttore di Radio Maria, Don Livio Fanzaga. C'era pubblico sui posti per creare una specie di colpo di Stato sanitario o colpo di Stato, come volete voi, mass mediatico. Un progetto volto a fiaccare l'umanità, metterla in ginocchio, instaurare una dittatura sanitaria, una dittatura cibernetica, creare un mondo nuovo, che non è più quello di Dio creatore, ma un altro mondo nuovo attraverso la eliminazione di tutti quelli che ovviamente non dicono sia questo progetto criminale. Ma non è bellissimo? Non è bellissimo? La dittatura cibernetica. Va bene. No, non va bene per niente. Affidiamoci al sindaco di Bari e presidente dell'ANCI, l'Associazione dei Comuni, De Caro. È... che attacca proprio i negazionisti, quelli che teorizzano il complotto delle case farmaceutiche. il vaccino alla fine lo ha scoperto una casa farmaceutica. E chi lo doveva scoprire il vaccino? La cartolibreria Futura, che ne so, chi lo doveva scoprire? I dipendenti di Decathlon, con tutto il rispetto per i dipendenti di Decathlon, lo scoprono le aziende farmaceutiche che poi lo producono. Alcune volte leggo delle cose che mi chiedo, ma da dove, non lo so, dove sto? Come sono arrivate queste persone a pensare queste cose? Va bene. Anche lui dice va bene, ma in realtà non pensa va bene. Così De Caro. Allora, andiamo sulla sostanza della giornata di ieri, che è una sostanza, se volete, ancora in parte di chiacchiere, no? Di chiacchiere su questa questione delle zone rosse, le zone arancioni, le zone gialle, questa infinita discussione per cui il governo, appunto, mette in zona rossa la Toscana e la Campania. Il presidente della regione toscana si arrabbia, Gianni, dice no, ma non avreste dovuto farlo, sono dati vecchi, cioè dice la stessa cosa che aveva detto il presidente della regione Lombardia la settimana prima. Poi Gianni ce l'abbiamo avuto ospite qua e quando era ancora in zona gialla o in zona arancione diceva «Ah ma no, ma guardate che il governo sta facendo tutte le scelte giuste che deve fare!» Però, ragazzi, mettetevi d'accordo con voi stessi. De Luca, come di consueto, piuttosto caustico e ce l'ha nella fattispecie con Luigi Di Maio e Luigi De Magistris, quindi il ministro degli esteri e il sindaco di Napoli. Sentiamolo questo passaggio. Di Maio ha detto cose ignobili e il presidente del Consiglio ha il dovere di intervenire. Non so se è chiaro. Chiaro. Non ha parlato di razzismo, ha detto cose peggiori, ha detto il falso sulla Campania e questo non è tollerabile, meno che mai quando si hanno collaborazioni di governo. Non so se è chiaro. La cosa ancora più scandalosa è che c'è stato a Napoli qualche amministratore che ha dato una mano, non avendo fatto mai niente per la sua città, per alimentare la campagna di sciacallaggio. C'è stato un amministratore a Napoli che è stato 102 volte in trasmissioni televisive da fine settembre ad oggi. Caragnese Pini, direttrice della Nazione, bentornata, ciao. Buongiorno. Che scoramento tutta questa vicenda, guarda, tutto questo, queste discussioni tra i presidenti delle regioni, il governo, no, non sei d'accordo? No, concordo assolutamente, perché prima di entrare nel merito anche della questione molto, molto pratica e molto vera dell'Italia semaforo, la cosa più insopportabile anche da cittadino, oltre che da osservatore, osservatrice di questa situazione, è veramente questo continuo rimpallo di colpe e di responsabilità fra le varie figure politiche istituzionali a tutti i livelli, da quelli locali a quelli nazionali, per cui la sensazione è che tutti prendano decisioni molto malvolentieri, ma poi siano sempre prontissimi a scaricare le responsabilità sull'altro. Sì, e a criticare chi prende le decisioni. Guarda che anche questo. Si sentano poi invocare che vengano prese queste decisioni, perché abbiamo visto De Luca fare esattamente questo nelle ultime settimane. Prima invocava il lockdown e si arrabbiava col governo perché non imponeva il lockdown. Una volta arrivato il lockdown, o comunque la zona rossa, che non è esattamente il lockdown, ha invocato invece la caduta del governo. Abbiamo visto quanto se l'hai presa con le varie figure che ricordavi anche tu poco fa, e la stessa cosa è successa però in Toscana, dove appunto il presidente Gianni si è detto stupito e amareggiato perché per questa zona rossa, quando in realtà poi gli indicatori di una situazione rispetto a una situazione che comunque aveva una sua criticità, una sua emergenzialità, c'erano ed erano ben chiari negli ultimi giorni. Ma stupisce davvero questa assenza di comunicazione istituzionale a un livello alto, sì, fra i vari attori in campo. Sì, sì. Si becca, sembra un po' come a scuola quando uno prende un brutto voto e dice: ma non è colpa mia, è colpa sì. del prof che me sì, la dà. Esattamente, il professore ce l'ha con me, ce l'ha con il me. Mio compagno, il mio compagno di classe. Come mai il mio compagno di classe ha avuto 6 e io ho preso 4? Perché abbiamo fatto un'interrogazione. Più o meno, sì, sì, sì. Più o meno, più o meno sì. Detto ciò, cara Agnese, qua c'è il grande tema dei dati, di come siamo messi dal punto di vista dei dati, quanto conosciamo effettivamente. Sentiamo cosa dice il presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Locatelli. Sentiamolo, va. Detto che c'è uno spiraglio, e ho anche aggiunto che c'è un'iniziale ma chiara decelerazione della trasmissibilità. Lo vediamo da diversi parametri, insomma, che di nuovo fanno riferimento a dei numeri concreti. L'indice di contagiosità attualizzato è sceso in maniera importante nel paese, da 1,7 a poco più di 1,4. Da 1,7 a poco più di 1,4, l'indice R con T, ci dice Locatelli, che è l'indice appunto di trasmissione, l'indice principale che utilizziamo esattamente per fare il punto sull'andamento dei contagi. E però il presidente dell'Accademia dei Lincei, che è un fisico e che ha fatto un accordo con l'Istituto Superiore di Sanità per avere questi dati, ci dice: guardate che quell'indice non è assolutamente affidabile. Sentiamo l'intervenuto ieri da Lucia Annunziata, e hai mezz'ora in più. La non affidabilità del calcolo dell'RT è chiarissima. Lei sa benissimo che quando si danno le forchette, quando si fanno l'exit poll, ci sono le forchette e i dati, si dice entro che forchetta stanno. Per l'RT è esattamente la stessa cosa. L'RT della settimana scorsa è 1,41, ma la forchetta da 1,08 a 1,80. Quindi a questo punto è una forchetta enorme. Capito, Agnese? Io quando ho sentito questa cosa ieri da Parisi, ospite dell'Annunziata, sono trasecolato, perché ero convinto che l'indice RT fosse in una forchetta più stretta, devo essere sincero. Colpa mia da giornalista, che evidentemente su questo non ero abbastanza informato, però non lo so, mi stupisce. Beh, prendiamo decisioni così. E tutti non sono abbastanza informati, perché appunto la questione dei dati, no, poi è uno dei temi che vengono rinfacciati in questi giorni e in queste ore proprio tra governatori regionali e governo centrale, circa il fatto che a un certo punto si scopre che i dati valutati, per esempio, no, per decidere se restare in zona arancione, gialla o rossa da parte del governo, non erano gli stessi che pensavano sarebbero stati valutati dai vari governatori regionali. Questo perché quando si vanno ad analizzare dati così complessi si devono appunto utilizzare dei parametri, altrimenti non se ne esce, e se questi parametri non sono condivisi chiaramente si genera la confusione e l'equivoco vero presunto che stiamo vedendo in continuazione. Ma qui l'appunto è che se non si riesce a fare un minimo di chiarezza, a trovare un minimo di intento comune almeno su questo punto, poi inevitabilmente ci troviamo di fronte ai negazionisti in stile Radio Maria, perché già la confusione è moltissima, e se neppure nella valutazione dei parametri tra istituzioni si riesce a trovare un sentore comune, non se ne esce. No, deve dire di no, traffico. So che la nostra amica Agnese Pini ci deve salutare, a testimonianza che le mattinate iniziano presto anche per i direttori dei quotidiani. Ciao Agnese, buona giornata, ciao, grazie, alla prossima, grazie, alla prossima. Dove andiamo? Direi che possiamo andare a tutto questo tema del vaccino anti-Covid. Come potrete ben immaginare, la Germania è già pronta a distribuirlo e noi siamo all'anno del mai, a quanto pare. Per quanto sostiene sempre il presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Locatelli, siamo pronti a gestire la catena del freddo. Cosa vuol dire? Vuol dire che questo vaccino della Pfizer e BioNTech è un vaccino che ha la necessità di essere mantenuto intorno ai meno 70 gradi. E mantenerlo a meno 70 gradi ovviamente non è facile, ci vogliono delle strutture apposite, il metodo di trasporto, bisogna ragionare se è possibile trasportarlo, in che modo è possibile trasportarlo. Siamo pronti a gestire questa catena, ci dice Locatelli. È un problema che è già stato affrontato e considerato preventivamente, nel senso che era ben noto che aveva questo tipo di particolare delicatezza nel meccanismo distributivo, e quindi il Paese, il Ministero non si è affatto trovare non pronto per questi aspetti di logistica. Se ne è già iniziato a parlare col professor Brusaferro, con il dottor Magrini, di poter avere un adeguato meccanismo di distribuzione. Se n'è già iniziato a parlare. Ma questo è il modo di pianificare. A testimonianza del fatto che in realtà non siamo pronti, c'è che è stata affidata al famoso commissario Arcuri proprio la settimana scorsa la responsabilità di creare un piano per la distribuzione dei vaccini. Questo vuol dire che prima questo piano non c'era, perché se no non lo affidi ad un commissario, no? Eccolo Arcuri. Ma noi ce ne stiamo occupando da metà di questa settimana. Abbiamo di fronte un'operazione complessa. Pensi che alla fine sarà la più grande vaccinazione di massa che verrà fatta non solo in Italia, ma mi lasci dire sostanzialmente in tutto il mondo. Come diciamo, la Germania non solo è già pronta, ma ha già le app per prenotarlo, come ha raccontato ieri Roberto Burioni, ospite di Che Tempo Che Fa, il quale ad Arcuri, che dice verrà dato prima ai sanitari e agli anziani, risponde: occhio che questo vaccino non è testato per gli anziani al momento, perché noi non sappiamo ancora quanto è efficace questo vaccino negli anziani. Ci sono alcuni vaccini che sono molto efficaci negli anziani, altri che sono meno efficaci negli anziani. I primi sicuramente da vaccinare saranno i sanitari, perché appunto sono quelli in prima linea. Però subito dopo, per capire chi potrà essere vaccinato, noi dovremo capire se questo vaccino protegge gli anziani. Se li protegge, sono i primi. Dunque, sentite, vi porterei sulla politica a questo punto. Direi che prima di tutto ci ricolleghiamo un po' a quello che abbiamo sentito, perché c'è un attacco da parte dell'opposizione allo stesso Arcuri. C'è Salvini che dice: a questo gli date in mano le cose, ma non è in grado di farle. Ha risolto zero problemi dall'inizio della pandemia. Sentiamolo. Durante i mesi dell'emergenza, commissario alle mascherine, commissario ai ventilatori, commissario alla riapertura delle scuole, adesso commissario ai vaccini. Cioè è stato nominato commissario a tutto, perché doveva risolvere tutti i problemi. Ne ha risolti? Zero. Dunque, la politica di ieri ci racconta soprattutto di quello che è successo dentro il Movimento 5 Stelle, questi famosi stati, si chiamano stati generali anche questi, sì, mi pare proprio di sì, uno scenario quasi da talk show televisivo, con Vito Crimi in uno scenario virtuale nel quale appaiono le varie componenti del Movimento 5 Stelle, parla Fico, parla Di Maio, parla di Battista. Il tema è quello: l'ala governista contro l'ala movimentista, i dibattistiani contro quelli che vogliono stare al governo, quelli scontro sempre contro, e contro quelli che invece appunto vogliono stare nell'esecutivo con Conte. Vabbè, dice Vito Crimi che c'è un no alle alleanze strutturali, che è stato confermato il limite dei due mandati. Uno degli snodi centrali lo troviamo innanzitutto nelle parole del Presidente del Consiglio, Conte, e nelle parole del Presidente della Camera, Fico, che dà un po' la testimonianza di come un pezzo del Movimento 5 Stelle vede Alessandro Di Battista. Siamo entrati nelle istituzioni e abbiamo vissuto le contraddizioni del passaggio dalle piazze ai palazzi, da opposizione a forza di governo. Riconoscerlo non significa rinnegare le origini, ma evolvere tenendo fede all'essenza del progetto. Una comunità che si pone dubbi e cerca sintesi ha un futuro davanti a sé. Se vive di slogan e dogmi, è statica e resta nel passato. Ve la traduco io, Dibba, piantala di rompere le scatole, ok? Detta elegante, detta elegante. E lo stesso tono, sempre, sempre ancora più elegante, il Presidente del Consiglio che gliela mette così. Nella vita politica ci si imbatte spesso nel dilemma tra coerenza delle proprie idee e possibilità di cambiare opinione. È un dilemma mal posto. La coerenza è sicuramente un valore, ma quando governi devi valutare la complessità. Se la coerenza delle stesse idee fa male al paese, si ha il coraggio e l'obbligo morale di cambiarle queste idee. Cioè GR24, ci ritroviamo subito dopo, sempre 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio, le vostre voci, sms, messaggi su WhatsApp. Siamo anche in diretta sulla pagina Facebook, come ben sapete. Ci risentiamo subito dopo con la rassegna stampa. Oh, un sacco di cose, un sacco di cose. Sulla politica, naturalmente, sul virus e anche ancora una volta sulla gestione delle risorse comunali a Roma.